il sabato del villaggio. Beh, sono già le 17:07 minuti, è tardissimo, quindi diamo subito la linea alla trasmissione bella, bellissima, che viene dopo il sabato del villaggio, che è questa qui. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. È o non è l'ora più bella del sabato pomeriggio? No. Dai, Daniele Bellasio, dillo. Non è per niente. Mi sono piaciute molto di più le due precedenti. No, per mi viene da ridere, perché adesso noi siamo allegri, ma fino a un minuto fa stavamo un po' litigando, però basta. Stavamo adesso litigando, e soprattutto non stavano facendo entrare l'ospite. Aprite a Max Perry. Aprite. No, è andato il nostro Daniele Buonamici giù a prenderlo. Grande Daniele. Il più buono dei che due Daniele nome di questo pomeriggio. Allora, dai, Daniele Bellasio. Allora, buonasera, bentornati a RadioTube, l'ora del sabato del villaggio che vi fa sentire le cose più belle, più divertenti, sì, meno divertenti, più virali della rete, dei video che sono andati in rete, ma noi li ascoltiamo alla radio. Voi potete scriverci usando nelle mentions @ Marta Cagnola oppure @ Di Bellasio, oppure potete usare l'hashtag RadioTube, mentre quello del sabato del villaggio è # ISDV. Dovrò cambiare il nome alla trasmissione perché non sbagli più. No, non sbagli più. Mentre sale Max Perry, uno dei nostri ospiti, perché poi parleremo molto invece di Expo, scende, no? Mentre sale Max Perry, allora, però non è giusto. Aspetta. Premessa: siamo in par condicio, quindi bastoniamo tutti. Ah, esatto, allora sì, lo diciamo al garante, sì. Nella scaletta ci sono Berlusconi, sì, Salvini, sì, Grillo e sì, Renzi. E parliamo tutti male di tutti, quindi. E li prendiamo tutti in giro. Sì, il però, primo però, non lo allora, prendiamo il primo, in giro. No, il primo è proprio una cosa fresca. Sì, l'abbiamo sentito successo da Biacchessi anche. È appena successa, sì. Io ho preso un audio perché in realtà non è che proprio si capì, non è come, cioè, quello di Madonna, ecco, che era No, lui però è bellissimo. Allora io ho preso un audio da Sky TG24, canale 27 digitale terrestre. Che ha fatto? Sentiamo Silvio, qua come il TG di Sky TG24 ha annunciato Silvio quello che ha combinato il povero Silvio. Ecco qua. Al termine del suo intervento sul palco, il leader di Forza Italia è inciampato su una pedana di legno ed è caduto. Le sue guardie del corpo, i militanti più vicini lo hanno immediatamente aiutato ad alzarsi. Berlusconi, sollevata la pedana e mostrandola al pubblico, ha scherzosamente commentato: questa l'ha messa alla sinistra. Poi è sceso dal palco, ha attraversato il teatro accompagnato dalla compagna Francesca Pascale, si è poi allontanato, l'avete anche sentito, l'ha messa alla sinistra. Io impazzisco, la messa alla sinistra, cioè. Ma si posso dire che però atletico, si può dire in par condicio. Guarda, non che so, cioè, ha una certa età. Appunto, è caduto, si è rialzato alla grande, era tutto elegante, aveva tutto un vestito giovanile, era, è tornato. E ha usato la messa alla sinistra. Beh, questo sì, è una battuta. Però veramente atletico, meglio di Madonna, secondo me. Che l'ha presa come peggio ci siamo. No. Allora, Berlusconi l'abbiamo sistemato e caduto, mentre Salvini fa rima con L'hanno scelto per questo, no? Bambini. Chi è che ha avuto l'idea? Allora, l'idea l'ha avuta Progetto Kitten, una pagina Facebook che conta poco più di 4.300 mi piace, ma che è quindi in continua crescita. Adesso crescita, non lo so perché non ho controllato adesso quanti mi piace ha. Beh, diciamo, avrà perso un po' di leghisti e guadagnato un po' di anti-leghisti. È finito subito nei trend topic di Twitter. Sì? Io ho un piccolo audio. E che audio hai preso, scusa? Ma un audio... Come quelli di Oscar. Esatto, come quelli di Oscar. L'ho preso da YouTube perché si annunciava questa sorta di flash mob virtuale. Eccolo qua. Esatto, i gattini come quelli di Oscar. Cosa hanno fatto? No, spieghiamolo anche per mia mamma. Allora, hanno invaso la tua mamma, alla quale facciamo ancora gli auguri di compleanno della volta scorsa. Allora, hanno invaso la pagina Facebook di Matteo Salvini, che fa rima con gattini. Con gattini, gli hanno postato tutte delle immagini di Salvini con dei gattini. Anche di gattini e basta. Perché lui, qualsiasi cosa lui postasse su Facebook, veniva inondato di gattini. Sì. E l'hashtag era gattini su Salvini. Sì. C'era sì. anche lui seminudo, come ormai è frequente. Vabbè, ragazzi, no? cioè, non cioè, ormai arriva anche l'estate. C'ha caldo, Salvini arriva c'ha l'estate. E poi lui l'ha presa bene. Ma no, poi tra l'altro è cioè, trending topic gattini su Salvini, ma sì. anche delle celebrities hanno postato i gattini. Cioè, su Salvini. Anche tipo? Tipo Facchinetti, mi sì, pare. Ma non si può dire perché qua, è par condicio, so. Par condicio. Allora lui ha fatto un po' di pulizia, sì. lui o lo staff, no? Sulla pagina Facebook. Sì. Però lui ha detto anche una battuta, insomma, l'ha presa bene. Ma sì, sì. ma alla fine secondo sì. me ha litigato di più con Alfano, sai, ma non penso che si possa dire, non Beh, credo. Non lo so. Hanno litigato su questioni di studio, di lauree, ma vabbè. Andiamo avanti. Va, andiamo per allora, non rischiare uno, che la parola, Grillo che oggi c'era la manifestazione, quindi oggi, però allora Grillo, chi direte ferisce, direte perisce. Sì, cioè? Perché questa settimana ci sono stati i Grillo Leaks. I Grillo, uno lunghissimo di più. Sì, ore, ma sono ore. Vere o fa? Non si capisce. Allora, niente. Secondo me sono vere. Sono sì. delle registrazioni sì. che qualcuno ha diffuso su un sito che poi, del quale poi è stato chiesto il sequestro. Quindi, però, che ovviamente, non si può tanto fare sta cosa. Ecco, no. ovviamente poi... Bambini, non copiate. Non copiate. Cioè, se state facendo una riunione tra di voi e qualcuno registra, non è bello che poi qualcuno metta in rete le cose. No, credo che me. Sia proprio illegale, tra l'altro. Anche non secondo lo so. me. Anche ce lo domandiamo me. E quindi allora, lo mandiamo è stato chiesto, esatto, è stato chiesto il sequestro del sito, però ormai in rete si sa che quando una roba... Quindi sequestro la cagnola dopo. No, dai, facciamo sentire solo qualche secondo, ma non facciamo sentire tutto solo... Frizziamolo. Esatto, solo per far capire... Il concetto, il diritto tema, di cronaca. Eccolo qua, Grillo Leaks. Uscire dal Parlamento significa questo, sì, ho detto, l'8 di agosto. Sono andato lì, abbiamo votato, vi piace questa idea di uscire, di fare una mattinata, tutti insieme, tutti i parlamentari, fare una seduta Beh, nel insomma, Parlamento, si capisce che è un discorso di Roma, un discorso privato, cioè sì, ma è come tra quello di loro. In pubblico. Sì, però lui è uguale. No, ma sì, però sai, si arrabbia come un se po'. Io e te che stiamo discutendo la scaletta, cosa cioè, che non succede perché esatto, cosa che non succede perché io gliela do appena entra in studio, non sa mica di cosa parliamo. Daniele Bellasio, e che ci diciamo le cose tra di noi e poi vengono, non lo so. Regista, io l'ho fatto, Quando finisce la stagione, invece del meglio di la mancano 8, no? Alla nonna mandi in onda tutti i dialoghi Mamma tra di noi. Sarebbe veramente bello, divertente. Istruttivo, molto istruttivo. Saprebbero certe cose di Marta. Ci sarebbero dei retroscena. Ci Dopo di che cosa parliamo? Diciamo. Allora, abbiamo parlato male di tutti intanto e non abbiamo parlato ancora male di Renzi. Ah giusto, quindi per par condicio per par condicio dobbiamo... bisogna bacchettare anche Renzi. E quindi troveremo qualcosa. C'è solido un posto crozza. In cui non sono ancora stata. Ancora non sei stata a Expo, secondo sei l'unica me in Italia. Ma io secondo me ci vado verso novembre. Tu no, finisce il 31. Ah cavoli, finisce ottobre? Vai allora, non posso 30, andare... il 31, vai, vabbè. Secondo me, io, allora, prendi i saldi. Facciamo che io non vado a Expo perché me lo faccio raccontare solo da Daniele Bellasio. Sì, e no. sarà una cosa un po' particolare, non subito però, No, dopo il traffico, noi continuiamo a litigare durante il traffico. Sì, adesso durante il traffico io e Daniele Bellasio continuiamo la nostra lite, però in onda no, dai, in onda no, in onda no, dai, vai. Traffico del villaggio a tra poco. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Radio Tube. Oh, bentornati Eccoci. A Radio Tube. Abbiamo bastonato un po' tutti perché ragazzi, par qua par condicio, che fatica, che fatica. Però adesso io vorrei parlare, l'ho detto, di Expo. Io non ci sono ancora stata. L'unica volta che ho cercato di comprare un biglietto si è impallato tutto perché evidentemente era il momento dell'inaugurazione erano tutti lì. Allora ho detto dire. No ragazzi, no, ma perché io arrivo sempre quando arrivano tutti gli altri, no? Allora ho detto ma porca la miseria, non è il momento giusto, basta, se non lo fai in quel momento lì non lo fai più. Secondo te, io mi presenterò lì il 1° di novembre e dirò ma qua Dai. Che c'è Expo, e mi diranno ma guardi, finito ieri e... Vai il 30, il 31, comunque tutti ne parlano. Ecco. Tempo fa ne parlava anche Maurizio Crozza. Lo so, dai, lo so Maurizio che sono No, ma è finito anche sui giornali Crozza. Questa cosa, Allora, è interessante perché io voglio fare un passettino indietro. E io qua sono sempre circondata da Expo ottimisti. Io appunto sono un Expo moderata. Ignorante. Io no, e non ci sono ancora stata. Ma ti sarai fatta un'idea. E non lo so, io sento parlare te, non è che... Ma io ho parlato pochissimo finora. No, però io non ci sono mai stata, quindi io mi fido di quello che mi si dice. Ecco. Allora, intanto però qualche mese fa si diceva che questo Expo non era pronto, non era pronto. Non ce la facevamo, non dicevano. Ce l'avremmo mai fatta, lo diceva anche Maurizio Crozza, e Maurizio Crozza lo diceva così. Expo a due mesi dal via, terminato solo il 18% delle opere. Fatemi capire, ragazzi, hanno iniziato i lavori nel settembre del 2012, quindi ci hanno messo 2 anni e mezzo per fare il 18%. E adesso devono fare il restante 82% negli ultimi 40 giorni? Sembrano me da ragazzo quando mi davano i compiti delle vacanze, me li davano a giugno, no? E li facevo tutti il primo di ottobre sullo scuola bus mentre andavo a scuola, 18 temi di italiano, 22 problemi di matematica in 4 fermate. Devo dire che anch'io così facevo i compiti. Sì, tutti. Cioè proprio all'ultimissimo. Leggevi però, tutti Malavoglia. Però, raga, c'è anche il nostro ospite che annuisce. No! Dai, dai, c'è anche il nostro compiti. I suoi compiti. Si sente. Sui compiti. Massimiliano Perri, Anzi, vorrei dire chiocciola MaxPerri71. Sì. Adesso leggo la sua così bio su Twitter. Oh. Beh, l'ha messa lui nell'account di Twitter, Sì, e io... c'è questo vezzo di mettere l'età. Io il 93 non lo metto. Senti come ride Max. Dov'è? Perché non, ma ci non crede? Ci credi? Sì. Ecco. Anche 43enne sposato dal 1997 con Lorenza, 4 figli, Letizia, Simone, Filippo Vera, avvocato per studio, comunicatore per passione, Expo, oggi Expo 2015 e domani qui roba mia, domani boh, perché c'è il punto di domanda. Allora, di lavoro si occupa dei contenuti web, giusto? Sì. Di Expo 2015.org. E anche tu hai fatto l'82% del lavoro negli ultimi 15 giorni? Sì, più o meno sì. Sì, però l'avete fatto bene. Abbiamo finito, siamo pronti, abbiamo aperto e quindi siamo. Ma tanto anche a scuola, cioè a scuola era il botto quello che contava. Esatto. Se hai fatto i compiti alla fine va bene lo stesso. Sì, entrano, la gente entra e esce contenta. Quindi anche dal sito? Anche dal sito, sì. Entra nel sito ed esce dal sito. Esatto, dal anche sito. Sul sito web virtuale. Ne abbiamo parlato prima tanta. Anche con, sì, infatti con Enrico Pagliarini. Sito web, ma si capisce. Ma il sito, la parola, vabbè, comunque. Allora, dai, abbiamo parlato male di tutti, dobbiamo dire anche qualcosa su Renzi, par condicio. Sì, vuoi dai. Dirla tu, Max? No, tengo famiglia. Tiene famiglia, 4 figli. Allora, facciamolo dire a Crozza. Al solito Crozza, sempre vai. Sempre Crozza, eccolo qua. L'inno d'Italia fatto da Jimi Hendrix, grande Savino Cesari, un applauso al nostro chitarrista Savino Cesari. Perché abbiamo fatto l'inno d'Italia da Jimi Hendrix? Perché l'Expo è partito da una settimana e all'inaugurazione Renzi gli ha cambiato le parole e noi abbiamo cambiato la musica, così tanto perché Mameli non riposi in pace neanche oggi. Vabbè, dai, li abbiamo fatti per tutti, anche Renzi. Sì, basta, sì, par condicio e salva. Dai, dilla quella cosa che ti no, ha fatto. No, dai, non oso. Dillo, no, vabbè, se insisti. Dillo, sì. Praticamente, Renzi, no, ma solo perché insiste, Max. Praticamente io ho fatto una foto delle code di lunedì, no? Sì. Ho scritto. Ma tanto lunedì non ci sarà nessuno, Expo, sai che tutti dicevano sabato e domenica, ok. Tanto lunedì, coda pazzesca. Sì, lunedì. Sì, è vero. Mi ha ritwittato. Lui. Caspita, lui. Cioè, come ci si sente quando ti fa? Esatto. Allora, mai capitato. Gli ha ritwittato il Premier, no? E praticamente da allora io continuo ad avere una scia di preferiti. Sono passati 15 giorni, 10 giorni, una settimana. Ah, e ancora. Fantastico. Vabbè, la potenza della rete. Vabbè, ognuno. Ma gli facciamo raccontare qualcosa, dai, per sì, convincerti. Facciamo raccontare. No, sì, è com'è perché... andata questa prima settimana, Massimiliano? Direi nel complesso bene. Mi sembra che abbiamo. Uno, abbiamo aperto. Questo è un dato oggettivo. Già. E non è male. Sabato, domenica molto bene, ma lunedì altrettanto bene. E a oggi, che è venerdì, quindi abbiamo finito la settimana bene, la gente c'è. Oggi è sabato. Sabato, tutto bene, la gente continua a entrare. Tra l'altro entra in maniera costante a tutte le ore. e ancora di più si vede entrare la sera, viene a fare cena, aperitivo, perché dalle 7 poi c'è un conveniente biglietto a 5 euro, per cui sì, vale proprio la uno pena. Uno risparmio sui biglietti, risparmio... penso poi nei ristoranti, diciamo. Però ci stanno pianino anche lì, sta passando la voce, quindi anche lì si stanno adeguando e hanno capito, insomma. Il primo fenomeno della rete, intanto dico che sono le 17:23-18 minuti prima che qualcuno pensi che siamo registrati. No, ho sbagliato io, è sabato, giuro. Ecco qua. Siamo rigorosi noi. Con la Roma. Sì. Per dimostrare. Vai Marta. No, che una delle prime cose che si sono diffuse in rete era stato lo scontrino di un ristorante giapponese. Poi qualcuno che aveva cercato di dimostrare che era una bufala per far finta di fare la bufala per diventare virale. Ma tutto questo fa rete, fa essere. Poi quando mai si è pagato poco a mangiare giapponese, detto mai. Tra noi, quindi, no, quindi adesso, cioè, andare mai. A giapponese e mangiare poco, uno pensa di mangiare male. Vero. Quindi. Ma cos'è che ti ha stupito in questa prima settimana? A me, per esempio, te lo dico subito, le scuole. Io non mi aspettavo così tante. Le scuole sicuramente sono state un fattore di stupore, perché sono arrivate contente e preparate. Sul fatto che fossero contente ci stava, uno magari fa un grande salta a scuola o fa festa, ma che fossero anche preparate è stato mi ha colpito. Io, l'altro 2 giorni fa ho accolto erano grandini per carità, ma una seconda liceo classico, la mia ex quinta ginnasio, e insieme ad un collega che fa l'architetto, che ha costruito fisicamente il nostro Expo, e lui dopo alla fine mi ha detto: caspita, erano preparati, erano attenti e preparati, perché avevano studiato, poi noi si entra in Expo, per chi fa il liceo classico la prima cosa che si vede è la scritta in latino sul padiglione zero. Che poi spiegherò a Marta che cos'è. Il sito è fatto come le vecchie città, antiche città romane, per cui con un decumano e un cardo, cioè la cultura classica paradossalmente anche nel 2015 spacca, direi, cioè serve ancora aver fatto il liceo classico. Meno male. Sì, da tanto padiglione zero è bellissimo. Davide Rampello ha fatto un capolavoro assoluto. Io vi dico che ho visto un sacco di gente che l'ha mostrato su Periscope. Ma anche Max. Sì, abbiamo fatto lo strumento è nuovo, quindi secondo me è bello perché è libero, cioè possiamo costruirci. Ho followato da poco Expo su Periscope. Funziona e si vede... Certo, Expo bisogna venirci, quindi devi impegnarti e venire fino al 31 di ottobre, cioè hai tempo. Quindi prima non posso venire prima. Ci sono 184 giorni, adesso un po' meno, ma uno ce la possiamo fare. Però per Expo funziona e si riesce a dare una buona idea di quello che si può vedere. Manca forse un elemento che è il profumo, perché sono l'odorama. Padiglione del Brasile, per esempio. Il padiglione del Bahrain è impressionante. Il padiglione del Bahrain è incredibile, probabilmente è il posto più profumato che c'è in tutta la... Se posso raccontare un anetto, come diciamo prima. Sì. Siamo stati qualche giorno fa a prendere, 3 giorni fa a prendere il caffè. C'era lì uno dei responsabili del padiglione che in inglese ci ha detto: venite, vi faccio vedere il posto più profumato, anzi il bagno più profumato, perdonatemi, di tutta Expo. Perché per andare in bagno nel padiglione nel Bahrain si passa da un punto dove ci sono 4 alberi di arancio in fiore che profumano in maniera impressionante, ed è veramente il bagno più profumato di Expo. Bello. Quindi, dopo la guida al ristorante, esatto. Che la guida dei bagni. Il Bahrain è ottimo. Un ottimo caffè. Sì. Comunque, ora della fine di Expo, devi trovare il modo di mettere sul sito web di Expo gli odori. I profumi. Sì, è fantastico. Lì è incredibile nel padiglione dell'Austria, c'è il bosco. Cioè, hanno ricostruito una vera e propria foresta, sostanzialmente. E anche lì è difficilissimo. Però c'è. Secondo me, lì in agosto sarà pieno di gente così. Sì, nel bosco, anche perché dicono cioè, proprio dovete transennarlo. Ci sono tra i 4 e i 5 gradi di meno. Però siete troppo Expo ottimisti. Metti qualcosa di negativo, crozza. Dai, qualche ritardo. Cosa c'è stato? Un altro crozza. Qualche varco? No, qualcuno è entrato da qualche varco? Crozza quando fa l'architetto Fuffa. Eccolo qua. Fuffa, eccolo. Fuffa. Senta, architetto, lei è già stato all'Expo? Cosa vuol dire quasi? Vuol dire che ci sono quasi arrivato, ma non ho trovato il parcheggio. Ah, non ha trovato posto perché era tutto pieno? No, proprio non c'era il parcheggio. Ho seguito i cartelli e me ne sono trovato a Brescia. Ah. Però ho visitato Brescia, che è stata un'esperienza incredibile. Brescia, lo sa che l'hanno finita? Sì, lo so. Però, senta, a parte Brescia, lei i progetti dell'Expo li conoscerà, no? Dico, i progetti dell'Expo li conoscerà, ci sono opere delle più famose archistar del mondo, no? Foster, Libeskind, James Bieber, che, tutti amici James suoi. James Taylor, sì, Justin Bieber. Lo conosco benissimo, Justin Bieber. No, non Justin, James. Cioè, Daniele Bellasi mi prende in giro perché scelgo sempre Crozza, però poi ride più di me. Vabbè, sì, ogni tanto. Ecco. Cioè, no, Fuffa è uno dei personaggi che gli riesce meglio. Ragazzi, 17:28. Ma non c'è nulla di Fuffa all'Expo? Non c'è nulla di Fuffa. No, però lì vicino. C'è la fiera che ha fatto lì vicino. La sua vela. Anche qua vicino. Fuffas. Ragazzi, un pochettino di pausa. 17:28. Ma sì, dai, litighiamo ancora un po' nella pausa. Nella pausa, sì. Adesso che c'è anche Max che ci guarda, così possiamo anche menarci un po'. Ci troviamo dopo una brevissima pausa ancora con RadioTube. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta... RadioTube. È l'ultima mezz'ora del sabato con RadioTube. Ah, ma già sospiri, sei allora, già stanco dopo allora, mezz'ora. Allora, tu sei di quelli che dicono, lo dicevamo nella pausa, adesso lo diciamo anche in diretta, mi si nota di più se vado a Expo, se non vado tu. Ma no, ma perché? Capito, Max? Tanto ci andate così, voi, mi raccontate e io... L'altra cosa, l'altro fenomeno di costume che sta avvenendo in città, Max, dimmi se ho ragione. Tu vedi in città queste persone che girano con questi enormi badge al collo, ormai in metropolitana invasa di gente. Perché ho l'impressione che, allora, o ve lo impiantano, che non si può togliere. Sì, è ufficiale. È impiantato. Allora, è una forma di status, come quell'orologio che non possiamo nominare, che c'è stata la polemica. È una forma di status. Dipende da quanti colorini tu hai. Ah, spiegami, ci sono 12 tasselini, no? Sì, allora, ci sono 12 tasselini su questo pass. Sì, vediamo. Ecco, allora, Max ne ha tipo 5. Cioè, lui può addirittura guidare la macchinetta da golf. Cioè, su cui tipo Matteo generale. Renzi, tutto può fare. È come Petreus al Pentagono. Cioè, lui è generale, tu sei... No, io zero. Non ho neanche un palloncino colorato, semplice. È incredibile. Cosa succede, bellino, Max, dietro lui, le quinte? Tu che puoi entrare... Ma dietro le quinte c'è tantissima attività, tanta, perché il sito si muove davanti per farsi vedere, ma anche dietro per poter mettere a posto, sistemare. E poi si muove 24 ore su 24. Per cui non di sera mai, più o meno mai. No, perché di sera si mette a posto, perché l'indomani si ricomincia. Quindi più potere, più lavoro, quindi non ti conviene. No, stai senza. Più ne hai, più è un tema. Senza più ne hai, più devi fare. Cioè, più tassellini hai. Fai conto questo. Io sono andato l'altro giorno a uno dei, si chiamano cargo, gli ingressi dei lavoratori, quelli che entrano appunto di notte, mentre la cosa. E mi hanno detto che io posso entrare 24 ore su 24, per cui la cosa è un po'. Ma tu puoi lavorare sempre. Quindi non so se ti conviene. Ma non lo so, dipende. Ma siete diventati amici, sono dei gruppi, sono nati degli amori. Amori non lo so, però, però viviamo oggettivamente in gruppo da ormai da tempo. Adesso noi siamo, nella nostra redazione web vive abbastanza in simbiosi con quella dei social, e per cui, perché ci scambiamo informazioni, lavoro, i video, eccetera, eccetera, per cui noi con loro siamo quotidianamente al lavoro e proprio anche fisicamente vicini. Cioè, da novembre ci vorrà del supporto psicologico. Sì, saremo soli. Come fanno? Vanno in comunità? Secondo me, comunque, di social. Dico agli psicologi all'ascolto, preparatevi. Ci sarà lavoro da novembre per supporto. Date i bigliettini fuori dal di ottobre, fuori esatto, dall'Expo, l'uscita esatto. È cargo. Ma a proposito di social. Successi in rete, voglio subito farvi sentire un video, perché è stato postato sulla pagina Facebook di Federico Clapis, che è una web star, 792.000 like sulla sua pagina. Questo video è stato visualizzato in questo momento, leggo in diretta, 4.155.991 volte. Ah però mi viene da dire. Allora, ve la ricordate l'intervista a quel ragazzo che era stato intervistato da TGCom24 il giorno dopo le manifestazioni e le devastazioni No Expo, e che aveva dato delle, insomma, motivazioni un po' quello singolare. Quello col cappuccio, aveva un suo modo un po' particolare di parlare. Federico Clapis ne ha fatto una parodia, appunto, oltre 4.150.000 visualizzazioni solo sulla pagina di Facebook, perché poi è stata duplicata 1.000 volte su YouTube, eccola qua. Dopo i fatti di ieri, tristemente noti a Milano, vogliamo avere un suo parere sugli eventi storici del passato. partendo dalla guerra di Troia. La guerra di Troia è stato un bel bordello, mi ricordo, è stata così una bella esperienza, siamo stati, eravamo tutti dentro al cavallo a fare il bordello. No, mi scusi, poi... lei non mi può far credere che lei era presente durante la guerra di Troia. Sì, minchia, io dove c'è manifestazione, dove c'è devasto, dove c'è bordello, ci sono io, ci sta. Credo che lei in questo momento viva un attimo fuori dal mondo, ma andiamo avanti. Ci dica qualcosa della prima guerra mondiale, per favore. Minchia, la prima guerra mondiale è stato davvero un bel bordello, ci siamo divertiti, eravamo in mezzo alla folla, così tutti che sparavano, una bella manifestazione, hanno sentito la nostra voce contro McDonald's, contro credo che la prima guerra mondiale non fosse inerente McDonald's o globalizzazione, ma fa niente, grazie. Beh, 4 milioni, si sta avviando verso i 4 milioni e 2, bravo Federico Clapis, devo dire. Ammazza, che audience. Poi tosto, è cattivo, va a far ridere, ma è tosto e cattivo. Abbiamo detto social, ma come sarà mai andato questo Expo sui social per ora in queste prime settimane di manifestazione? Abbiamo al telefono il nostro esperto Andrea Barchiesi, lo abbiamo già sentito più di una volta da Reputation Manager. Buonasera Andrea. Buonasera. Allora Andrea, come voi avete un po' analizzato il movimento sui social di Expo 2015, come sta andando? Allora, anzitutto sta accelerando i volumi. Nell'ultimo anno abbiamo avuto 1.300.000 tweet circa, nell'ultimo mese 533, dal primo maggio 211.000. Quindi se si fa una debita proporzione, in realtà è una curva di accelerazione. Che sta succedendo? Di che cosa stanno parlando le persone? Il sentimento è al 44% negativo e al 13% positivo, il 43% è neutro come dati. Perché come al solito, però, se posso dire, è più facile scrivere la verità. La rete, questo lo chiama un po', dai. Assolutamente, nella rete le tematiche negative trovano un terreno di scambio estremamente più veloce. Ma quali sono queste tematiche negative? Si concentrano soprattutto sui ritardi relativi alla realizzazione del polo espositivo. Una delle argomentazioni fondamentali è: si sapeva già dal 2007 com'è possibile arrivare in un ritardo anche se contenuto, e altri gli episodi di corruzione e di cronaca che hanno caratterizzato un po' la fase finale dell'evento. Più sulla parte della sicurezza, una curiosità è che non temono gli utenti tanto il terrorismo, ma temono una sorta di mancato collaudo proprio per le strutture realizzate all'ultimo istante. Che dire, come commentate Daniele e Massimiliano queste rilevazioni che arrivano dai social? Bisogna vedere, poi vedi ti fidi di quello che senti. Credo che insomma sia anche un po' un meccanismo. Sicuramente nelle settimane precedenti all'apertura di Expo era invalsa un po' una forma di narrazione, direbbe qualcuno, legata a dei ritardi. Poi uno è entrato e di ritardi, francamente, qualche cluster che dipende dai paesi in difficoltà. Però appunto sta nelle cose, ci sta, è un evento, sono 1 milione di metri quadri di operazione, non è semplice, quindi... Penso che proprio un po' ci sia che uno si fida di quello che sente. Sì. E invece se viene, quelli che vengono a vedere rimangono tutti a bocca aperta, è perché è bello, io so che sono di parte, però è proprio bello. Ma ci sono stati anche fior di critici che poi nel frattempo, quando è aperto, hanno detto no, però effettivamente alla fine ci siamo. Diciamo che in rete è sempre bello, particolarmente bello lamentarsi, essere cattivi. Perché poi in rete non è che costi tanto, Non è smentibile, perché chi può dire che poi è più facile retweetare o diffondere. Ma qual è la parte del sito web che va più forte, che viene consultata di più? Nell'ultimo periodo le informazioni su come arrivare. Tantissimo. Abbiamo avuto il peak, quindi tanti click, ovviamente il primo di maggio, sulla parte ovviamente dei biglietti e di come arrivare. Quella che ha cercato di comprare il pandino mentre parlava Renzi. Te lo regaliamo? Lo vuoi? No. Purtroppo, il tuo compleanno è lontano. Però è ancora dentro Expo. E allora te lo regaliamo. Dentro Expo. Andrea, ci sono altre rilevazioni dalla vostra analisi sui tweet? Una cosa interessante, conferma proprio quello che stavate dicendo. Dal primo maggio in poi c'è un'inversione positiva invece. in cui viene visto anzitutto dal punto di vista nazionale come un'occasione di lancio, questo a più voci sta emergendo, e successivamente di chi ha visitato c'è un commento positivo per la bellezza dei padiglioni e la qualità dei prodotti. Ah, vedi, vedi, vedi. Primo maggio. Ecco, sì. Quindi qualcosa quindi buono, sta quando sta si sono aperte le porte. Sì. No, bisognerebbe trovare una serie di contronarrazioni. Sì. Su Expo già un po' l'inno ha invertito, l'inno ha invertito, la cerimonia ha invertito, il concerto della sera prima è stato un concerto, poi adesso si sta un po' diffondendo un po' tra gli operatori che sono dentro, quelli che sono fuori, un po' di facciamo un po' rete fuori, cioè quelli che lavorano per i padiglioni, iniziano gli aperitivi, quelle cose lì, no? Ah, vedi, è vero, e questo magari mette tante piccole ondine in moto, che poi c'è Renzi che comunque è un player, numero uno, certo. Andrea, su attenzione Twitter. Alla par condicio qua, perché poi magari una uno cosa dice di social. Frasi, esatto. Ecco, vai Marta. Andrea, noi continuiamo a seguire le vostre analisi, Reputation Manager, magari ci riaggiorniamo tra un po', così ci dici come sta andando e come sta procedendo sia il sentiment che insomma tutto questo movimento sui social su Expo, Andrea. Certamente, grazie a voi. Grazie Andrea Barchiesi, ciao. Buona serata. Allora, noi... Ci sarà una piccola pausa? Sì, ci sarà una prima piccola di commuoverci. Pausa. Sì, però voglio parlare di amore. Sì. Bambini. Guarda... restare Max, che sì, ne ha quattro. Facciamolo restare. Che è un esperto della materia. Sì, cioè. Anche perché poi io sono sempre cinica in queste cose, invece ecco. Come mi son commossa. Ma più per Eli o più per Elizabeth? No, io quando si tratta della monarchia inglese impazzisco. Io quando si tratta della Canalis. Vabbè. Andiamo avanti. Allora, sono le 17:44 minuti. Io direi di andare a sentire come sta andando su strada, perché poi dobbiamo andare. Andiamo, io vado ad Ogliani, quindi mi troverò anche nelle un po' mie langhe. Nelle tue langhe. Vabbè, dai, andiamo a sentire traffico come sta andando villaggio. La situazione. Sì, mi piace quando Daniele Bellasio lo chiama traffico del villaggio. YouTube. E come passa? Come passa, dai. Diverte. Guarda, l'ora di Radio YouTube mi vola come niente. Ti vola, che devi partire, devi andare. Dopo ti consiglio un ristorantino per Dogliani. Ah, grazie, sì, perché c'è il Festival della Televisione. Lo sappiamo. L'ultima giornata. C'è anche Giovanni Minoli. Sì. Ci allora, sono un po' di cose questa da andare settimana a sentire. Ti ho segnalato io. Eli, sì, che tenera. Sì, vabbè, che era carina, su tutti i siti. Che carina. Allora. No, allora mostriamola subito. Sì, come facciamo dici vedere di cosa tu. Ha fatto. Lei, dobbiamo dirlo. Non si vede. Si è mostrata in questo video su YouTube con un pancione. Sì, però era chiaramente finto. Era finto, ma l'annuncio era vero. Eccola qua. Sono contenta di poter condividere con voi questo momento importante. L'anno scorso mi siete stati vicini, siete stati carinissimi, mi avete dato un sacco di affetto. Grazie. Adesso non so come dirlo, però... Diciamo che un po' si vede. Dici? È un po'. Aspetto una bambina. E speriamo che vada tutto bene. Incrociamo le dita. E... Cioè, l'aspetto veramente, cioè, lasciate stare a sfidarci. E quindi, insomma, grazie per tutto. Vabbè, carina, poi dice aspetta una bambina e poi io da donna dico subito che a un certo punto si è toccata il vestito, però la pancina ce l'ha, a parte il fatto che dice una bambina, quindi sì, oddio, qualche mese. Tu hai notato la pancina? Insomma, ma stiamo parlando di una signora in dolce attesa. Ma che c'entra? Elisabetta, Max. Beh, Elisabetta. Ma questa cosa qua si può fare, no, di raccontare, non lo so, sono un po' combattuto io. Sulla rete. Sì, dai. Dopotutto, lei ha vissuto tutta la sua vita sotto scherzando, forse si può. Dai. Sì, forse sì, scherzando. Più che esatto, senza troppa prendersi troppo sul serio. Allora. Invece, Kate. Va di moda alle bambine. Come si chiama? C'ha tre nomi: Diana, allora, Elizabeth. Però sei partito dal fondo, certo. Charlotte. Come la nipote di Hillary Clinton. Che anche lei è Charlotte, figlia di Chelsea. Charlotte. Charlotte Elizabeth, come la nonna. La nonna. E, cioè come la bisnonna e Diana. Diana, ma che bel nome, ma che bel nome. Comunque la cosa più divertente è l'annuncio dell'araldo di corte, il pittoresco. No, ma andate a vederlo, vi prego, cioè purtroppo questo non si può mostrare alla radio, è una scena fantastica. Anche perché da una parte l'annuncio su Twitter e dall'altra questa roba qua. E la mattina la regina vestita di rosa. Ma sentiamo come. Mostriamo l'araldo alla radio. On this day, the 2nd of May, in the year 2015. We welcome with humble duty the second born of their Royal Highnesses, the Duke and Duchess of Cambridge. The Princess is forth in line to the throne. May our Princess be long-lived, happy and glorious, and one day long to reign over us. God save the Queen! Eh beh ragazzi, God save the Queen, giù di campanella, bello. Già son già qua che aspetto di vedere ogni volta le foto. Ma si è vista poi? Ma certo, sì. Sono già le foto della bimba. A chi assomiglia? La classica domanda dopo due ore. È uguale. Ma io non lo capisco neanche quando quando hanno 15 anni, figuriamoci. Sì, però è bella, però è molto molto molto bella. La piccola Charlotte. No, 6 minuti e 30 ancora. Ma facciamo tempo a vedere altri video. Ma certo che facciamo tempo a vedere altri video. Per esempio? Allora, Famiglie, visto che abbiamo parlato visto che abbiamo parlato di bambini, cioè, che tu sei un addicted della grande famiglia, non mi toccate la grande famiglia. Allora, abbiamo parlato di nascite di bimbi, ma insomma, tra le notizie positive ci possono anche essere i matrimoni. Sì. E le proposte di matrimoni. Dipende. Quindi c'è anche stata con questa parole settimana tue, e lo so, ma mi interrompi e io mi emoziono perché stiamo parlando di una proposta di matrimonio molto commovente che questa settimana è andata in onda in diretta su Sky a Italia's Got Talent, creando molte polemiche, molte discussioni, perché questa è stata la proposta di matrimonio che è andata in onda su Sky. Un futuro sposo che ha chiesto di sposarlo al suo fidanzato. Eccoli qua. Grazie per averci regalato questo Nina. Bellissimo sogno. Aspetta, fai la fine. Avrei due secondi. Certo. Queste occasioni ci sono una volta sola nella vita. Puoi aiutarmi? Dimmi, e tradurre quello che sto per dire, per cortesia. Oddio, se in francese, guarda che io sono fatta male. Io ti aiuto. Dai, in inglese. Vai. Cosa? Kyle. Oh. So we have performed tonight, okay, in a ring. Hanno fatto questa performance questa sera qui. And we were in a ring and erano in un cerchio. This ring had brought us together in our work. E questo cerchio li ha fatti what we love. Unire nel loro lavoro, in quello che fanno di più, and, in amore. No. No. Qui gli applausi per i due futuri marito e marito. Dai, carini. Molto carini. E hanno fatto la proposta di matrimonio. E avrà detto la conduttrice: non sapevo niente. Esatto. Immagino. Non sapeva niente. Tutto spontaneo. Naturale. Ma come sei cinico. Ma proprio tu che ti occupi di TV. Ma anche. Come sei cinico. Era tutto vero. Sì, era tutto certo. Spontaneo e genuino. Chi di noi non va in televisione? Ma a sposarsi? Come sei cinico. No, vabbè, guarda, mi dopo... stai proprio spezzando il cuore. No, era tutto vero e niente era studiato di questa proposta. Infatti... di matrimonio, ma abbiamo trovato la fidanzata per non c'è. Tu lo conosci Pratico. Allora, non lo conosci, non conosci Pratico. Allora, noi in realtà ne abbiamo parlato poco tempo, ne avremmo parlato forse un mesetto fa, sì. Però lui è un mito della rete ormai, sì, già da tempo, perché lui aveva fatto questo straordinario video nel quale cercava la fidanzata. Diceva: io mi chiamo Pratico e cerco una fidanzata. Povero, bella. Sì, lo diceva in maniera... Sì, perché... Convinto. Sì, la cercava bello, sex. Vabbè, certo che deve cercarla brutta... antipatica. Sai che Enrico Pasquale Praticò è tornato? È tornato, guarda, è un mito, eh. Allora, ah, un altro mito. Potete farlo ambassador di Extra. Sì, sì. Allora, quanti follower hanno? Allora, io vorrei fare notare a Massimiliano, a Daniele, che già in regia stanno ridendo. Sì. Perché Enrico Pasquale Praticò è stato scovato da un altro personaggio molto noto in rete, che è il critico d'arte Andrea Di Pre. Ah, beh, mitico. Ecco. Siamo alla mitologico. Sì, esatto. Siamo al top, come dice. Siamo al top. Sentite qua l'incontro. Sentiamo. Tra Andrea Di Pre e Enrico Pasquale Praticò. Sono un ragazzo carino e sono sex. E hai un cellulare? Samsung Galaxy Grande Neo. Fra poco Enrico Pasquale Praticò qui a Di Pre per il sociale, rimanete con noi. Ciao. Gentili telespettatori, ben trovati da Andrea Di Pre, mi trovo in Calabria, sono a Motta San Giovanni e incontro uno dei massimi, io lo definisco un linguista moderno perché coniuga la tradizione con la contemporaneità. Con me c'è Enrico Pasquale Praticò. Ciao Enrico. Ciao. Ciao, piacere. Allora Enrico, brevemente, puoi presentarti al pubblico del Di Pre per il sociale? Io sono Enrico Pasquale Praticò, ho 23 anni, e sono a Motta San Giovanni e sono qua. Sono qua. Qualcuno mi venga a prendere. Poi ma com'è il suo codice fiscale? Poi canta, vabbè. È anche un po' commovente. È tenero, povero Enrico Pasquale Praticò. Ma secondo me è tutto studiato anche lì. Bravo, talento della rete. Adesso parlo solo con Max. Parliamo. Ma che cinico. Sì, che è, po sì, perché poi cioè, mi vuole togliere tutte le illusioni. No. Però, c'è poesia. Però adesso io, prima di salutare Massimiliano Perri, devo dire una cosa. Cosa? Cioè, lui come fotoprofilo ha una foto insieme a Giuseppe Cruciani. Sì. Ma come? Sì, ma non nella cornice. Però adesso facciamo il selfie e la cambio. Esatto, adesso vogliamo una foto con noi due. Certo, scusa, perché con Giuseppe Cruciani io sono un po' gelosa. Sì, sì, all'esse lunga. All'esse lunga? Vabbè, diciamo, a un supermercato di quelli. Esatto. Ma lui lo sa di essere nel tuo profilo? Boh. Ma soprattutto a Expo non ti hanno detto, ma scusa. No, non hanno ancora notato. Non hanno ancora notato. Non hanno notato. Ma soprattutto non hai messo sul pass di Expo la foto con Cruciani. Dovresti farla con Beppe, come dice Matteo. Beppe, sì, è vero, hai ragione. Beppe Sala. Ce l'ho anche quella, del primo maggio con lui. Sì, ce l'ho. Ragazzi, che cose ragazzi, tenere. Che cose meravigliose. Pensa alla moglie, povera. Allora. Si vede il profilo del marito con Cruciani. Allora, state parlando troppo bene di Expo, che qualcuno ci ha criticato. Ci ha criticato. Non lo so, io devo ascoltarli, perché come sapete io ci vado il primo di novembre. Ragazzi, è volato. Noi ringraziamo e salutiamo Massimiliano Perri. Chiocciola Max Perri 71, noi ringraziamo Filippo. In regia Filippo Aureggi, poi ci ha dato una mano Daniele Buonamici, ma anche Cristian Goldoni. Un abbraccione a tutti al prossimo sabato e dai, saluta tu Daniele. Ciao, sono qua.